Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Ne sentiamo parlare ormai da qualche tempo e sono il sogno di tutti i fan della tecnologia, di tutti gli smanettoni sparpagliati per il mondo, anche se per il momento sono in vendita in pochissimi paesi e come prototipo e a un costo decisamente elevato. Parliamo dei Google Glass e anche di tutti i loro parenti, cioè gli occhiali col computer incorporato che Google sta sviluppando e che grazie a uno speciale display ottico permettono di farci vedere da immagini, informazioni e quant'altro in trasparenza, mentre possiamo osservare anche il resto del mondo. Ne parliamo con Giulio Caperdoni, capo della ricerca e sviluppo di VDM Consulting, che in Italia sperimenta i Google Glass e sviluppa applicazioni dedicate per conto della stessa Google. Buonasera Caperdoni. Buonasera Maurizio e buonasera agli ascoltatori. Allora, intanto ti chiedo, ci siamo conosciuti qualche giorno fa, ecco, se ci fai un po' il punto sullo sviluppo di questo oggetto che è molto atteso appunto soprattutto dai fanatici di tecnologia. Allora, il punto è necessario perché comunque sono già disponibili semplicemente come prototipo, come giustamente dicevi tu, da 2 anni e ancora non sappiamo quando saranno commercializzati. In questi 2 anni ci sono state diverse evoluzioni dell'oggetto e del software che si trova sull'oggetto. Ecco, però ancora non c'è ancora una release definitiva perché ci sono ancora problemi da risolvere. Quali sono questi problemi attualmente? Ma guarda, sicuramente il problema più significativo in questo momento è quello della batteria, che sicuramente non è ottimizzata come un prodotto finito, che ha 2 problematiche di base, che sono una quella della durata, che è ancora molto limitata, e l'altra è quella del mancato isolamento termico e quindi si scalda a un certo punto si scalda e si sente. Allora, abbiamo tutti, credo, insomma, avuto esperienza di come con l'introduzione di nuovi dispositivi, di nuove interfacce, cioè nuove modalità di interazione fra l'uomo e il dispositivo, ci possono essere ricadute gigantesche, insomma. Ecco, allora ti chiedo, questa nuova modalità di interfacciarsi con il mondo delle macchine, con l'informatica, ecco, secondo te cos'è che cambia veramente a usare un paio di occhiali di questo tipo piuttosto che uno smartphone come quelli che ci sono in giro oggi? Cambia il fatto che io ho le mani completamente libere, perché uno smartphone devo comunque tenerlo in mano, un tablet devo tenerlo in mano, e quindi in tutte quelle situazioni in cui è fondamentale poter ricevere un supporto da un dispositivo tecnologico, ma devo avere le mani libere, gli smart glass, di cui i Google Glass sono sicuramente l'elemento, il prototipo più noto, rappresentano un grandissimo vantaggio, soprattutto in ambito professionale. Ci fai qualche esempio? Noi ci siamo incontrati per esempio a un congresso in cui si parlava di applicazioni, in cui tu parlavi delle possibili applicazioni dei Google Glass in sala operatoria. Perché in sala operatoria potrebbero andare bene, o magari, non so, per chi si occupa di manutenzione potrebbero andare molto bene? Hai detto benissimo, sala operatoria è un caso perché il chirurgo deve avere ovviamente le mani libere e può ricevere un supporto da parte dei Google Glass fondamentale per riuscire a svolgere meglio il suo compito rispetto a come già lo sta svolgendo. Idem per il manutentore che deve intervenire su un motore, già adesso con il motore a cofano ancora chiuso, sovrapponendogli un tablet può vedere quali sono gli elementi all'interno del motore ed essere guidato nella sua manutenzione, però quel tablet deve tenerlo in mano. Se certo. Invece le stesse cose che ho appena descritto le può fare con le mani libere, completamente libere e vedendo perfettamente sovrapposta, no? La realtà reale con quella virtuale, in questo caso creata dagli occhiali, beh, naturalmente è un modo completamente diverso certo. Di lavorare. Una domanda invece, perché un altro effetto collaterale di tutti questi smartphone sono per esempio, non so, gli incidenti stradali, la gente che va a sbattere contro un palo perché sta guardando il cellulare mentre cammina. Da questo punto di vista gli smart glass non rischiano di peggiorare questo fenomeno? Guarda, noi ci stiamo lavorando da circa 1 anno e mezzo, quindi è proprio un'esperienza diretta quella che vado a raccontarti, che proprio di recente ho visto anche poi confermato da una serie di articoli che sono usciti. È esattamente il contrario, nel senso che a differenza degli smartphone o dei tablet che completamente catturano la tua attenzione, contrariamente a queste situazioni, una volta che dopo le prime settimane tu hai imparato ad utilizzare il glass al meglio, quindi non è più come quando guidi, poi non pensi più alla frizione, no? Infatti sei molto più immerso nella realtà, quindi puoi fare esattamente le stesse cose che stai facendo con lo smartphone, però non distogliendo lo sguardo dalla realtà in cui sei immerso. Grazie Giulio Caperdoni. Grazie a te. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.